Capitolo 9, settembre, cioccolata e ciambelle dell'Epifania. Ingredienti della cioccolata: 2 libbre di cacao Soconusco, 2 libbre di cacao Maracaibo, 2 libbre di cacao Caracas, zucchero da 4 a 6 libbre secondo i gusti. Preparazione: la prima operazione è quella di tostare il cacao. Per fare questo è bene usare una padella di latta invece del comal, perché l'olio che secernono i chicchi penetrerebbe nei pori del comal. È importantissimo seguire alla lettera queste indicazioni, perché la bontà della cioccolata dipende da tre fattori, e cioè dal fatto che il cacao sia sano e non avariato, dal mescolare diverse qualità di cacao e per ultimo dal grado di tostatura. Il grado di tostatura consigliabile è quello del momento in cui il cacao incomincia a secernere olio. Se lo si ritira prima, oltre ad avere un aspetto sbiadito e sgradevole, sarà indigesto. Se si lascia invece troppo a lungo sul fuoco, i chicchi saranno in gran parte bruciati e daranno un sapore aspro e pungente alla cioccolata. Tita ricavò solo mezzo cucchiaino di quest'olio, che mescolato con olio di mandorle dolci serviva a preparare un'ottima pomata per le labbra. D'inverno le si screpolavano invariabilmente, qualsiasi precauzione prendesse. Quando era bambina, questo le causava grande fastidio perché ogni volta che rideva le sue labbra carnose si spaccavano e sanguinavano, producendole un intenso dolore. Con il passare del tempo accettò con rassegnazione questo inconveniente e, siccome ora non aveva molti motivi per ridere, non ci pensava più. Poteva tranquillamente aspettare che le screpolature sparissero con l'arrivo della primavera. L'unico interesse che la spingeva a preparare la pomata era che quella sera sarebbero venuti a casa alcuni invitati a tagliare la ciambella dell'Epifania. Era per vanità e non perché pensasse di ridere molto che voleva avere le labbra morbide e brillanti durante la festa. Il sospetto di essere incinta non la predisponeva di certo ad avere il sorriso a fior di labbra. Non aveva neppure pensato a questa possibilità quando aveva fatto l'amore con Pedro. A lui non l'aveva ancora detto. Quella sera pensava di dirglielo, ma non sapeva come l'avrebbe presa Pedro e quale soluzione si poteva trovare a questo grande problema, proprio non lo sapeva. Preferiva cercare di non tormentarsi ulteriormente e di deviare i pensieri verso cose più frivole, come la preparazione di una buona pomata. Da questo punto di vista non c'è nulla come la crema di cacao, ma prima di mettersi a confezionarla era necessario finire di preparare la cioccolata. Una volta tostato il cacao, nel modo che si è detto, lo si passa al setaccio per separare la scorza dal chicco. Sotto al metate, con cui lo si macina, si mette un recipiente con un bel fuoco e quando il metate è caldo si incomincia a macinare il cacao. Lo si unisce poi allo zucchero, battendolo con un pestello di pietra e macinando i due ingredienti insieme. Quindi si divide l'impasto. Con le mani si modellano le tavolette tonde o lunghe a piacere, e si mettono all'aria. Con la punta di un coltello si possono disegnare le divisioni. Mentre Tita modellava le tavolette, rimpiangeva con tristezza i giorni d'Epifania della sua infanzia, quando non aveva problemi così seri. A quel tempo la sua maggior preoccupazione era che i re magi non le portavano mai quello che lei chiedeva, ma quello che mamma Elena pensava andasse meglio. Soltanto pochi anni prima aveva appreso che la ragione per cui in una sola occasione aveva ricevuto il regalo sperato era stato perché Nacia, con i propri risparmi, le aveva comperato un cinemino che aveva visto nello scaffale di un negozio. Lo chiamavano cinemino perché era un apparecchio che proiettava immagini sul muro utilizzando un lume a petrolio come sorgente di luce e creava un effetto simile a quello del cinematografo, ma il suo vero nome era cinetoscopio. Che felicità aveva provato trovandoselo vicino alle scarpe quando si era svegliata la mattina dopo. Quanti pomeriggi di gioia avevano trascorso lei e le sue sorelle a guardare le immagini disegnate in sequenza sulle lastrine di vetro che rappresentavano diverse situazioni divertenti. Come le sembravano lontani ora quei giorni felici, quando Nacia era con lei. Nacia aveva nostalgia del suo odore di minestrone, di chilaquiles, di champurrado, di salsa fatta nel molcajete, di pane con la panna di tempi passati. Nessuno l'avrebbe mai eguagliata nel sapore della sua cucina, nei suoi atoles, nel suo tè, nelle sue risate. nei suoi cicadores alle tempie, nel suo modo di farle le trecce, di rimboccarle le coperte la sera, di curarla quando era malata, di cucinare secondo i suoi capricci e di sbattere la cioccolata. Se avesse potuto tornare indietro solo per un momento e ritrovare un po' dell'allegria di quegli istanti e poter preparare la ciambella dell'Epifania con lo stesso entusiasmo di allora. Se avesse potuto mangiarla più tardi con le sorelle come ai vecchi tempi, tra scherzi e burle, quando ancora Rosaura e lei non dovevano contendersi l'amore di un uomo, quando lei ignorava ancora che il matrimonio le sarebbe stato negato in questa vita. Quando Gertrudis non sapeva che sarebbe fuggita di casa e avrebbe lavorato in un bordello. Quando, trovato il pupazzetto nella ciambella, si aveva la speranza di vedere esauditi miracolosamente e alla lettera i propri desideri. La vita le aveva insegnato che la cosa non era così facile, che sono pochi quelli che senza farsi troppi problemi riescono a realizzare comunque i loro desideri e che ottenere il diritto di determinare la propria vita le stava costando più fatica del previsto. Quella lotta la doveva fare da sola e questo le pesava molto. Se almeno le fosse stata accanto sua sorella Gertrudis. Eppure era più facile che un morto tornasse in vita, piuttosto che Gertrudis facesse ritorno a casa. Non avevano più ricevuto sue notizie da quando Nicolas era andato nel bordello a consegnarle i vestiti. Tita mise ad arieggiare, insieme ai suoi ricordi, le tavolette di cioccolato appena modellate e incominciò a preparare la ciambella dell'Epifania. Ingredienti: 30 g di lievito fresco, 1,250 kg di farina, 8 uova, un cucchiaio di sale, 2 cucchiai di acqua di fiori d'arancio, una tazza e mezza di latte, 300 g di zucchero, 300 g di burro, 250 g di frutta candita e un pupazzetto di porcellana. Preparazione. Con le mani o con una forchetta si stempera il lievito in 250 g di farina e si aggiunge a poco mezza tazza di latte tiepido. Appena gli ingredienti sono ben amalgamati, si smette di lavorare la pasta e se ne fa una palla che si lascia riposare finché raggiunge il doppio del suo volume. Rosaura fece la sua apparizione in cucina proprio mentre Tita stava mettendo a riposare la pasta. Veniva a chiedere il suo aiuto per poter seguire la dieta che John le aveva prescritto. Da alcune settimane aveva dei gravi disturbi di digestione e soffriva di aerofagia e di alitosi. Rosaura si sentiva così mortificata da questi disagi che aveva preso la decisione che lei e Pedro dormissero in camere separate. In questo modo riduceva un po' la sua sofferenza, poiché poteva lasciare andare liberamente le sue flatulenze. John le aveva raccomandato di evitare cibi come tuberi e legumi e di fare attività fisica. Questo le era però difficile data la sua eccessiva grassezza. Non si spiegava perché da quando era ritornata alla fattoria avesse cominciato a ingrassare così tanto pur mangiando le stesse cose di sempre. Sta di fatto che le costava un enorme sforzo mettere in movimento quel suo corpo voluminoso e flaccido. Tutti questi acciacchi le stavano procurando un'infinità di problemi, ma il più grave era che Pedro si stava allontanando da lei ogni giorno di più. Non gliene dava la colpa, neppure lei sopportava il proprio odore pestilenziale. Non ne poteva più. Era la prima volta che Rosaura si confidava con Tita e toccava certi argomenti con lei. Le confessò anche che non lo aveva fatto prima a causa della gelosia che provava nei suoi confronti. Pensava che tra lei e Pedro ci fosse una relazione d'amore nascosta, celata sotto le apparenze, ma ora che vedeva quanto era innamorata di John, nell'imminenza del suo matrimonio aveva capito come fosse assurdo continuare ad avere questo tipo di sospetti. Sperava che ci fosse ancora tempo per stabilire un buon rapporto tra loro. In verità, la relazione tra Rosaura e Tita era stata fino ad allora come quella tra l'acqua e l'olio bollente. Con le lacrime agli occhi, Rosaura la supplicò di non serbarle rancore per aver sposato Pedro e le chiese consiglio su come riconquistarlo, come se lei fosse stata in grado di darle quel tipo di consigli. Rosaura le raccontò con riluttanza che da molti mesi Pedro non le si avvicinava più con intenzioni amorose, praticamente la fuggiva. Questo non la preoccupava più di tanto, dato che Pedro non era mai stato troppo portato agli eccessi sessuali. Ultimamente, però, non era solo questo, intuiva nel suo atteggiamento un aperto rifiuto nei suoi confronti. Poteva perfino precisare con esattezza quando questo era iniziato, perché lo ricordava perfettamente. Era stata la notte in cui il fantasma di mamma Elena era apparso per la prima volta. Lei era sveglia e aspettava che Pedro rincasasse da un giro che era andato a fare. Quando era tornato, aveva prestato pochissima attenzione alla storia del fantasma. Era come assente. Durante la notte lei aveva tentato di abbracciarlo, ma egli o era profondamente addormentato o fingeva di esserlo perché non aveva reagito alle sue sollecitazioni. Più tardi l'aveva sentito piangere sommessamente e lei a sua volta aveva finto di non ascoltarlo. Sentiva che la sua obesità, i suoi urti e il suo alito allontanavano Pedro da lei ogni giorno di più e non vedeva alcuna soluzione. Perciò le chiedeva il suo aiuto. Aveva più che mai bisogno di lei e non sapeva a chi altro rivolgersi. La sua situazione si faceva ogni giorno più critica. Non avrebbe saputo come reagire al che cosa dirà la gente se Pedro l'avesse abbandonata. Non l'avrebbe sopportato. L'unico conforto che le rimaneva era costituito dalla figlia Speranza che aveva l'obbligo di rimanere accanto a lei per sempre. Fino a quel momento tutto era andato molto bene. Le prime parole di Rosaura avevano fatto strage nella coscienza di Tita, ma quando aveva udito per la seconda volta quale sarebbe stato il destino di Speranza, dovette fare uno sforzo supremo per non gridare in faccia alla sorella, che questa era l'idea più aberrante che avesse mai sentito in tutta la sua vita. In quel momento non poteva iniziare una discussione con Rosaura, che avrebbe mandato all'aria le sue buone intenzioni di ricompensarla per il torto che le stava facendo. Quindi, invece di esternare la sua opinione, promise alla sorella di prepararle una dieta speciale per aiutarla a perdere peso. E gentilmente le fornì una ricetta di famiglia contro l'alito cattivo. L'alito cattivo ha la sua origine nello stomaco e le sue cause sono varie. Per farlo sparire bisogna cominciare con gargarismi di acqua salata, che deve essere anche inalata dal naso, mescolata con qualche goccia di aceto di canfora polverizzata, e parallelamente bisogna masticare continuamente foglie di menta. Questi consigli, seguiti con costanza, riescono a purificare l'alito più pesante, disse Tita. Rosaura la ringraziò infinitamente per l'aiuto e andò subito nell'orto a raccogliere foglie di menta, non senza averla prima supplicata di mantenere la massima discrezione su quella delicata faccenda. Il volto di Rosaura aveva rivelato un grande sollievo, invece Tita era distrutta. Che cosa aveva mai fatto? Come riparare il male fatto a Rosaura, a Pedro, a se stessa, a John? Con che sguardo l'avrebbe accolto di lì a pochi giorni? Al suo ritorno dal viaggio, John, la persona a cui doveva solo gratitudine, John che l'aveva fatta rinsavire, John che le aveva indicato la via verso la libertà, John, la pace, la serenità, la ragione, davvero non se lo meritava. Che cosa dirgli, che fare? Beh, al momento la cosa migliore era continuare a preparare la ciambella dell'Epifania, perché l'impasto che aveva lasciato lievitare mentre chiacchierava con Rosaura era ormai pronto per la fase successiva. Si dispone a fontana sul tavolo il chilo di farina. Nel centro si mettono tutti gli ingredienti e si comincia a impastare iniziando dal centro e prendendo poco per volta la farina tutto intorno, fino a esaurimento. Quando la pasta con il lievito avrà raddoppiato di volume, la si unirà all'altra, mescolando perfettamente sino a ottenere una massa omogenea che si deve staccare dalle mani con facilità. Con un raschietto si toglie la pasta rimasta attaccata al tavolo e si utilizza anche questa. Si mette poi la pasta in un recipiente profondo precedentemente imburrato. Si copre con un tovagliolo e si aspetta che lieviti nuovamente sino a raddoppiare di volume. Bisogna tenere presente che la pasta impiega circa 2 ore per raggiungere questo volume ed è necessario che lo faccia 3 volte prima di poter venire messa in forno. Proprio nel momento in cui Tita stava coprendo con un tovagliolo il recipiente dove aveva messo a riposare la pasta, una forte raffica di vento investì la porta della cucina, spalancandola di colpo e facendo entrare un freddo gelido. Il tovagliolo volò via e un brivido gelato percorse la schiena di Tita. Si voltò e quale non fu il suo stupore nel trovarsi a faccia a faccia con mamma Elena che la guardava duramente. Ti ho detto tante volte di non avvicinarti a Pedro. E perché l'hai fatto? Ho cercato, mammina, ma niente. Quello che hai fatto è intollerabile. Hai dimenticato che cosa siano la morale, il rispetto, le buone maniere. Non vali niente, sei una persona qualunque che non rispetta neanche se stessa. Hai infangato il nome di tutta la mia famiglia, da quello dei miei avi a quello del maledetto essere che hai in grembo. No, mio figlio non è maledetto. Sì che lo è, lo maledico io, lui e te, per sempre. No, per favore. La comparsa di Cencia in cucina fece sì che mamma Elena si voltasse immediatamente e uscisse dalla stessa porta attraverso cui era entrata. Chiudi la porta, bambina, non vedi che freddo fa? Ultimamente mi sembri molto stordita, cos'hai per la testa? Niente. Non le succedeva niente, se non che aveva un mese di ritardo e sospettava di essere incinta, che avrebbe dovuto dirlo a John quando fosse tornato per sposarla, che avrebbe dovuto annullare il matrimonio, lasciare la fattoria se voleva avere il bambino senza problemi, rinunciare per sempre a Pedro perché non poteva fare dell'altro male a Rosaura. Le accadeva solo questo. Ma non poteva dirglielo. Se l'avesse fatto, pettegola com'era Cencia, all'indomani tutto il paese l'avrebbe saputo. Preferì non darle nessuna risposta e cambiare bruscamente argomento, così come faceva Cencia quando lei la coglieva in fallo. Che guaio! La pasta sta traboccando! Lasciami finire la ciambella, altrimenti viene notte e siamo ancora qui. L'impasto non stava ancora traboccando dal recipiente dove era stato messo a lievitare, ma questo era il pretesto ideale per distogliere l'attenzione di Cencia da altri argomenti. Quando la pasta ha raddoppiato il suo volume per la seconda volta, si mette sul tavolo e se ne fa una striscia. In mezzo, se si vuole, si mettono dei pezzetti di frutta candita, altrimenti soltanto il pupazzetto di ceramica. Si arrotola la striscia formando una ciambella che si dispone su di una teglia imburrata e infarinata, lasciando abbastanza spazio tra questa e il bordo della teglia, perché raddoppierà di volume ancora una volta. Nel frattempo si accende il forno per mantenere una discreta temperatura in cucina finché la pasta non finisce di lievitare. Tita osservò attentamente il pupazzo di ceramica prima di introdurlo nella ciambella. Secondo la tradizione, la notte del 6 gennaio si taglia la ciambella e la persona che trova il pupazzetto nascosto ha l'obbligo di dare una festa il 2 febbraio, giorno della Candelora, quando si toglie Gesù bambino dal presepio. Fin da quando erano molto piccole, questa tradizione si era trasformata in una specie di gara fra lei e le sorelle. Era ritenuta molto fortunata quella a cui toccava il pupazzo. Alla sera, stringendo con forza il pupazzo tra le mani, la fortunata avrebbe potuto esprimere un desiderio. Osservando attentamente le delicate forme del pupazzo, pensava com'era facile desiderare le cose durante l'infanzia, quando non vi è nulla di impossibile. Crescendo ci si rende conto che non si può desiderare tutto, perché c'è sempre qualcosa di proibito, di peccaminoso, di indecente. Ma che cos'è la decenza? Negare tutto ciò che si vuole veramente? Magari non fosse mai cresciuta, né avesse conosciuto Pedro, né si trovasse nella situazione di non voler essere incinta di lui. Magari sua madre la smettesse di tormentarla, di perseguitarla in ogni angolo, di gridarle quanto era indegno il suo comportamento. Magari Speranza si potesse sposare senza che Rosaura glielo impedisse e non conoscesse mai quelle sofferenze e quei dolori. Magari questa bambina avesse il coraggio che aveva avuto Gertrudis di fuggire di casa se necessario. Magari Gertrudis fosse ritornata per dare a Tita quell'appoggio di cui aveva tanto bisogno in quel momento. Esprimendo questi desideri, introdusse il pupazzetto nella ciambella e la lasciò sul tavolo perché continuasse a lievitare. Quando la pasta raddoppia il suo volume per la terza volta, si decora con frutta candita, la si pennella di uovo sbattuto e la si copre di zucchero. La si mette in forno per 20 minuti e poi la si lascia raffreddare. Quando la ciambella fu pronta, Tita chiese a Pedro di aiutarla a portarla in tavola. Avrebbe potuto chiederlo ad altri, ma aveva bisogno di parlargli in privato. Pedro, ho bisogno di parlarle in privato. È molto semplice, perché non va nella camera scura? Lì nessuno ci disturberà. Da molti giorni sto aspettando che lei ci vada. Sì, devo proprio parlarle di questi incontri. La conversazione fu interrotta dalla comparsa di Cencia che veniva ad annunciare l'arrivo dei lobo che partecipavano alla festa e comunicava che li stavano tutti aspettando per tagliare la ciambella. Tita e Pedro quindi non poterono far altro che interrompere la conversazione e portare la ciambella in sala da pranzo, dove era attesa con ansia. Mentre attraversavano il corridoio, Tita vide la madre, in piedi vicino alla porta della sala da pranzo, che la guardava con occhi di fuoco. Tita rimase paralizzata. Il pulke si mise ad abbaiare a mamma Elena, che si dirigeva minacciosamente verso Tita. Il cane aveva il pelo del dorso irto dalla paura e per difendersi indietreggiava. Era così sbalordito che mise una zampa posteriore nella sputacchiera di ottone che si trovava in fondo al corridoio, vicino alla felce, e tentando di scappare la rovesciò in terra spandendone il contenuto dappertutto. Il baccano attirò l'attenzione dei 12 invitati che erano già riuniti in sala. Si affacciarono in corridoio molto allarmati e Pedro dovette spiegare che il pulche, forse per la vecchiaia, ultimamente faceva questo tipo di cose inspiegabili, ma che tutto era sotto controllo. Tuttavia, Paquita Lobo si accorse che Tita stava per svenire. Chiese che qualcun altro aiutasse Pedro a portare la ciambella in sala da pranzo, perché vedeva Tita molto turbata. La prese sotto braccio e la portò in sala. Le fecero inalare i sali e poco dopo si ristabilì completamente. Decisero allora di passare in sala da pranzo. Mentre si avviavano, Paquita trattenne un attimo Tita e le domandò: «Adesso ti senti bene? Ti vedo ancora un po' frastornata e hai una faccia. Se non fossi sicura che sei una ragazza per bene, giurerei che sei incinta». Tita, ridendo, rispose con noncuranza: «Incinta? Ah, solo lei può pensare una cosa simile. E cosa c'entra poi la faccia?» «Io posso vedere subito negli occhi di una donna quando è incinta». Tita sentì gratitudine per il pulche che l'aveva salvata nuovamente da una situazione incresciosa, perché il baccano infernale che stava facendo in cortile le permise di interrompere la conversazione con Paquita. Oltre all'abbaiare del pulke si sentiva il rumore di cavalli al galoppo. Erano arrivati tutti gli invitati. Chi poteva essere a quell'ora? Tita andò di corsa verso la porta, l'aprì e vide che il pulke faceva le feste a una persona che precedeva un drappello di rivoluzionari. Soltanto quando furono più vicini poté constatare che al comando del gruppo c'era niente di meno che sua sorella Gertrudis. Al suo fianco cavalcava lo stesso uomo che l'aveva rapita anni addietro, che ora era il generale Juan Alejandrez. Gertrudis scese da cavallo e, come se il tempo non fosse passato, disse con la massima disinvoltura di essere venuta per una buona tazza di cioccolata appena sbattuta, sapendo che era il giorno in cui si mangia la ciambella dell'Epifania. Tita, abbracciandola piena di emozione, la condusse subito in sala da pranzo per esaudire il suo desiderio. In casa facevano la cioccolata come da nessun'altra parte, perché mettevano molta cura in tutte le fasi della preparazione, dalle materie prime fino alla sbattitura, che è un altro capitolo importantissimo. L'imperizia nello sbatterla può far sì che una cioccolata di ottima qualità diventi disgustosa, o per scarsa cottura, o per troppa cottura, o perché troppo spessa, o addirittura perché bruciata. Il metodo per evitare tutti gli inconvenienti menzionati è molto semplice. Si mette a cuocere una tavoletta di cioccolato nell'acqua. La quantità d'acqua deve essere di poco maggiore della misura del brico in cui la si farà bollire. Quando inizia a prendere bollore, si toglie dalla fiamma, si fa sciogliere perfettamente la tavoletta e si sbatte con il frullino finché si amalgama bene con l'acqua. Si rimette sul fornello e quando bolle nuovamente e incomincia a montare, la si allontana dal fuoco. Ve la si rimette subito finché prende bollore per la terza volta. Allora la si toglie definitivamente e la si sbatte. Se ne versa metà nella chicchera e si sbatte ancora il rimanente. Si versa infine tutta lasciando la superficie coperta di schiuma. Si può fare anche con il latte anziché con l'acqua, ma in questo caso si porta a ebollizione solo una volta e la seconda volta che si mette sul fuoco la si sbatte perché non rimanga troppo densa. La cioccolata fatta con l'acqua è più facile da digerire di quella fatta con il latte. Gertrudis chiudeva gli occhi ogni volta che beveva un sorso della cioccolata che aveva davanti. La vita sarebbe molto più piacevole se uno potesse portare sempre con sé i sapori e gli odori della casa materna. Ma questa non era più ormai la sua casa materna. La madre era morta senza che lei l'avesse saputo. Aveva provato un gran dolore quando Tita gliel'aveva detto. Era tornata con l'intenzione di dimostrare a mamma Elena che era riuscita a trionfare nella vita. Era generalessa dell'esercito rivoluzionario. Questa nomina se l'era guadagnata rischiando la pelle, combattendo come nessun altro sul campo di battaglia. Aveva nel sangue il dono del comando. Infatti, appena entrata nell'esercito rivoluzionario, aveva iniziato a dare rapidamente la scalata ai posti di potere fino ad arrivare al migliore. E non soltanto a quello. Tornava felicemente sposata con Juan. Si erano ritrovati, dopo che si erano persi di vista per più di un anno, e tra di loro era rinata la stessa passione del giorno in cui si erano conosciuti. Cos'altro poteva chiedere una donna? Come le sarebbe piaciuto che la madre l'avesse vista e quanto avrebbe voluto rivederla, anche solo per farsi dire con un'occhiata di prendere il tovagliolo e di pulirsi la cioccolata dalla bocca. Questa cioccolata era preparata come ai vecchi tempi. Gertrudis fece una preghiera in silenzio, occhi chiusi, chiedendo che Tita vivesse a lungo per cucinare le ricette di famiglia. Né lei né Rosaura lo sapevano fare, quindi il giorno in cui Tita fosse morta, con lei sarebbe morto il passato della famiglia. Finito di cenare, passarono tutti in sala dove ebbero inizio le danze. Il salone era perfettamente illuminato da una colossale quantità di candele. Juan riuscì a impressionare gli invitati suonando in modo meraviglioso l'armonica, la chitarra e la fisarmonica. Gertrudis seguiva il ritmo dei motivi che Juan interpretava battendo sul pavimento la punta dello stivale. Lo guardava con orgoglio dal fondo della sala, dove uno stuolo di ammiratori la circondava, assediandola con domande sulla sua partecipazione alla rivoluzione. Gertrudis, con gran disinvoltura, mentre fumava, narrava fantastiche storie di battaglia alle quali aveva preso parte. In quel momento teneva tutti a bocca aperta, raccontando come si era svolta la prima fucilazione che aveva ordinato. Ma non riuscendo più a trattenersi, interruppe il racconto e si lanciò al centro della sala, dove incominciò a ballare con grazia la polca Jesusita in Chihuahua, che Juan interpretava magistralmente alla fisarmonica. Alzava con civetteria la sottana fino al ginocchio, mostrando grande spigliatezza. Quell'atteggiamento provocava commenti scandalizzati tra le donne lì riunite. Rosaura disse sottovoce a Tita: «Non so proprio da chi Gertrudis abbia preso il senso del ritmo. Alla mamma non piaceva ballare, e dicono che papà ballasse malissimo». Tita come risposta alzò le spalle, sebbene sapesse perfettamente da chi Gertrudis avesse ereditato il ritmo e altre cose. Pensava di portarsi nella tomba questo segreto, ma non le fu possibile. Un anno dopo, Gertrudis diede alla luce un bambino mulatto. Juan andò su tutte le furie e minacciò di lasciarla. Non perdonava a Gertrudis di essere ricaduta nel vizio. Allora Tita, per salvare il matrimonio, confessò tutto. Per fortuna non si era azzardata a bruciare le lettere perché le testimonianze del nero passato della madre le erano servite come prova sicura per dimostrare l'innocenza di Gertrudis. Fu comunque un colpo difficile da accettare, ma almeno non si separarono. Vissero per sempre vicini e trascorsero più tempo felici che infelici. Tita dunque, così come sapeva di Gertrudis, ora sapeva anche del fallimento del matrimonio della sorella maggiore e della propria gravidanza. Voleva sapere quale fosse la soluzione migliore. Quella era la cosa importante. Per fortuna aveva qualcuno a cui confidare le sue pene. Sperava che Gertrudis si trattenesse nella fattoria il tempo sufficiente ad ascoltarle e a darle dei consigli. Cencia invece desiderava tutto l'opposto. Era furente con Gertrudis, ossia non proprio con lei, bensì con il lavoro che le comportava, il drappello che si portava dietro. Invece di godersi la festa, aveva dovuto apparecchiare una grande tavola in cortile e preparare cioccolata per i 50 uomini della sua truppa a quell'ora di notte. Continua. Prossima ricetta: torrejas di panna.